Buonasera a tutti gli ascoltatori di Radio Alma 101.9 e benvenuti a una nuova puntata di Giro di Boa, che ora va in onda un giovedì ogni 2 settimane. Sono qui in studio, nello studio di Bruxelles con Gustavo. Ciao Gustavo. Ciao Michele, buonasera. E buonasera a tutti e oggi affrontiamo come primo argomento lo slow food, che è un concetto di cui spesso abbiamo sentito parlare, ma vorremmo sapere un po' di più cosa c'è dietro questo movimento e questo concetto. Ne parliamo con uno dei fondatori del movimento Slow Food, Piero Sardo, un passato importante da giornalista, oggi presidente della Fondazione Slow Food per la Biodiversità e membro della segreteria nazionale di Slow Food Italia. Buongiorno Piero, ci sente? Benissimo, grazie, buonasera, buongiorno a tutti. Buonasera e grazie di essere qui con noi. Vorremmo Grazie a cominciare con voi. una domanda molto semplice, anche se forse è la più complicata, cioè cos'è lo slow food? Come ce lo può spiegare in qualche parola? In qualche parola è complicato, perché a vedere oggi cos'è lo food, cioè un movimento che è presente in 140 paesi, che ha 120.000 associati, che ha 4.000 comunità del cibo, è difficile rendersi conto di cos'era quando è partito, cioè circa 30 anni fa, che era sostanzialmente un'iniziativa di un gruppo di amici che arrivavano da un'esperienza politica, insomma, gli anni del 68, gli anni del 70, e che tutti quanti appassionati di gastronomia decisero di fare delle cose per aiutare un po' il nostro territorio, perché in quel momento il vino aveva dei problemi enormi, ci fu lo scandalo del metanolo e poi pensavamo che tutto sommato la gastronomia piemontese non fosse così valutata nel mondo come meritava. E allora abbiamo cominciato a lavorare in questo senso, cioè come una società enogastronomica di fatto. E poi di lì, via via, in modo quasi spontaneo, automatico, abbiamo cominciato un percorso che ci ha portati poi a Terra Madre e al Salone del Gusto e ai 10.000 orti d'Africa. Un percorso, ripeto, che sembra spontaneo, cioè nel senso che abbiamo scoperto che dietro la gastronomia ci vuole un'agricoltura sana, pulita e giusta, abbiamo scoperto che l'agricoltura moderna è un'agricoltura massiva, industriale, che distrugge la biodiversità, abbiamo scoperto che la biodiversità è il presupposto per il mantenimento della vita su questo pianeta, e insomma, siamo arrivati al punto in cui siamo oggi, veramente una cavalcata entusiasmante. Piero, quali obiettivi avete raggiunto in questi anni? Si può dire che ci stiamo avvicinando piano piano a una situazione in cui il cibo è più buono, più pulito e più giusto, secondo il vostro slogan? No, essere molto onesti direi di no, nel senso che c'è più consapevolezza, la gente si rende conto di cosa significa avere un cibo pulito e giusto, ci sono molte preoccupazioni in merito a un uso sconsiderato dei pesticidi, dei fertilizzanti, cioè, la gente in qualche modo percepisce tutto questo, però poi nel momento dell'acquisto la sirena della grande distribuzione, dell'agroindustria e della pubblicità è ancora più forte. E questa è un po' una battaglia di Davide contro Golia, cioè, c'è poco da fare. Cioè, noi siamo assolutamente convinti che questa sia la strada da percorrere, siamo convinti che soltanto un'agricoltura di piccola scala che garantisca la sicurezza alimentare sia lo strumento per evitare la consumazione delle risorse del pianeta. Però ripeto, è una lotta impari e finché il consumatore non si rende conto che il prezzo non è l'unico parametro per acquistare un prodotto, e dirlo in un momento in cui c'è una crisi così grossa non è facile, ecco, finché non si renda conto di questo, questa battaglia non la possiamo vincere, da soli non la possiamo vincere. Piero, tu sei anche presidente, della Fondazione Slow Food per la Biodiversità. Voi avete tanti progetti, l'Università delle Scienze Gastronomiche, Terra Madre, i presidi di Slow Food. Ma parlaci un po' di più di questa fondazione di cui tu sei presidente. Questa fondazione è relativamente recente rispetto alla storia di Slow Food, cioè è nata nel 2003, quindi insomma, diciamo una decina d'anni fa, ed è nata con una necessità. Cioè, noi abbiamo pensato, se vogliamo fare degli interventi nel sud del mondo, era stata soprattutto questa l'iniziativa, se vogliamo fare degli interventi nel sud del mondo e quindi ricevere donazioni, aiuti, progetti, eccetera, dobbiamo staccarci un po' dal mondo slow food così com'è, che è un mondo troppo variegato. Cioè, io, se sono un donatore e do 100 euro per aiutare una comunità africana, non voglio che questi 100 euro vadano anche nelle cene organizzate da slow food, nelle riviste, negli spettacoli, negli eventi. Voglio che vadano esattamente all'idea che io sostengo. Quindi, per fare questo occorre una trasparenza completamente diversa da quella che ha l'associazione. Non dico che l'associazione faccia cose negative, tutt'altro, cioè non è che facciamo operazioni illegali, è semplicemente che l'associazione fa molte cose e molte cose non sono orientate verso la benevolenza, verso l'aiuto. E quindi abbiamo creato questa fondazione, che è una ONLUS, che in Italia significa che è una società garantita dallo Stato, che non fa attività per il profitto, e di lì in avanti questo percorso è iniziato e ci ha portati oggi ad avere una fondazione che ha una sua fisionomia, non è più soltanto un contenitore, cioè un transfer di donazioni. Oggi è una istituzione di slow food che ha una sua fisionomia, un suo peso, in parte è quella che determina alcune strategie importanti. Tu hai citato i presidi, le comunità di terra madre, gli orti in Africa, i mercati della terra, sono tutte iniziative che arrivano dalla fondazione, che in qualche modo la fondazione controlla. Ciao Piero, buonasera, sono Gustavo. Come hai appena detto, Slow Food è una fondazione diciamo sostenuta dall'Stato, che non fa profitto, però come vi sostenete? Una persona che vi ascolta, che magari vuole aiutarvi, come può sostenere la fondazione? Guarda, noi abbiamo alcuni canali di sostegno, di aiuto. Uno sono i progetti europei, cioè noi partecipiamo a dei bandi europei, non da soli, con altri, e questi garantiscono, se li vinci, cosa non facile, perché ormai i concorrenti sono molti, ma insomma noi abbiamo delle idee giuste, che quindi è più facile farsi largo. E questi bandi europei ci garantiscono sostanzialmente una parte di questi denari necessari per andare avanti. Un'altra parte importante sono i sostenitori grandi, cioè aziende. Sapete, oggi il valore etico di un'azienda non è più un fenomeno strano, cioè molte aziende vogliono in qualche modo darsi un aspetto etico, aiutare, lo fanno anche per furbizia, per uno scopo anche pubblicitario, ma insomma c'è di peggio. E quindi abbiamo aziende e istituzioni che in qualche modo diventano sostenitori. E poi abbiamo tutto un canale di piccoli contributori che si attivano in vari modi, ma sostanzialmente anche attraverso il sito, i quali possono conferire 30 euro come 300, come 1000, che fanno una donazione spontanea, così proprio da tipica benevolenza anglosassone. Una donazione spontanea a cui noi poi diamo un riconoscimento. Il vantaggio è che se tu fai una donazione a una ONLUS, quindi passi attraverso il sito e fai una donazione, questa donazione poi la puoi detrarre dalle tasse, questa in Italia, la puoi detrarre dalle tasse, perché appunto lo status di ONLUS garantisce questo, garantisce che ciò che ci arriva è detraibile dall'imponibile. E questo è quanto. Poi, ripeto, non stiamo parlando di milioni e milioni di euro, noi siamo sostanzialmente una piccola istituzione, relativamente dei giganti che operano nel nostro settore. Però insomma abbiamo un bilancio corretto, giusto, che ci permette di fare le attività, non tutte quelle che vorremmo, ma parecchie. Piero, hai parlato dei progetti europei. Noi siamo una radio basata a Bruxelles e molti dei nostri ascoltatori sono qui di Bruxelles. L'Unione Europea ha un ruolo molto importante perché per la politica agricola, per la politica di sicurezza alimentare. Voi avete spesso a che fare con istituzioni europee qui di Bruxelles? Sempre di più, sì. Cioè, fino a 4-5 anni fa facevamo fatica a rapportarci con le istituzioni europee, un po' per un fondo sostanzialmente un poco anarchico che rimane nel gruppo dei fondatori, no? Dove un po' di sofferenza verso queste istituzioni così bloccate, così potenti, così sopra la testa dei consumatori. E un po' anche perché c'è una difficoltà oggettiva a muoversi nei confronti della comunità europea. Se tu non hai un ufficio dei delegati a Bruxelles, i contatti sono sporadici e casuali. Poi da un certo punto in avanti abbiamo capito che invece questa era, in tutte le contraddizioni che esistono, perché bisogna essere chiari, cioè la comunità europea ha sempre due facce nel suo modo di legiferare e di procedere, no? Una faccia che guarda i piccoli e cerca di aiutare le produzioni tradizionali, dall'altra una faccia che invece poi deve accontentare le grandi lobby, l'agroindustria e poi magari firma dei trattati con gli Stati Uniti che non so dove ci porteranno. Ma insomma, in questa complessità europea noi abbiamo trovato un canale che è quello della difesa della biodiversità e delle piccole produzioni. In questo canale la comunità ha dimostrato di essere sensibile, cioè c'è stato un interesse, per cui noi abbiamo alcuni progetti in Africa, nei Balcani, in Europa, finanziati in buona parte dalla comunità europea proprio per mappare le produzioni tipiche, andarle a cercare, aiutarle a sopravvivere, fare dei presidi e in qualche modo metterle in contatto con i consumatori. Questo è stato un po' il nostro strumento per entrare rapidamente in contatto con la comunità. E oggi abbiamo anche un nostro rappresentante stabile a Bruxelles, soltanto da un anno, neanche da 8 mesi. Però vuol dire che abbiamo fatto un grosso passo avanti. E in dubbio questo è un campo che non potevamo noi ignorare, cioè è assolutamente impossibile. Piero, ancora un'ultima domanda per finire. Abbiamo sentito tante attività, progetti che Slow Food sta facendo in presente. Ci puoi parlare un po' di qualche grosso progetto che avete in mente in pipeline, diciamo, per sviluppare in corto periodo di tempo? Guarda, noi abbiamo all'ultimo congresso che si è svolto un anno e mezzo fa, abbiamo rilanciato uno dei progetti più innovativi che abbiamo messo in campo, cioè quello degli orti in Africa. Noi abbiamo fatto questo esperimento di lanciare il progetto di 1000 orti in Africa, perché pensiamo che l'orto non sia un hobby, l'orto è il modo, lo strumento per garantire a piccole comunità la sicurezza alimentare. Ma gli orti che facciamo noi, che fanno gli africani, ma che noi ispiriamo, sono anche orti che debbono essere coltivati con sementi assolutamente locali, quindi nessun ibrido di provenienza straniera, nessuna diavoleria moderna, tradizione perché la tradizione ha un senso, perché se in quel luogo lì è cresciuta quella pianta lì, si è sviluppata quella varietà lì, è perché era la migliore possibile, la natura non sbaglia. E quindi noi facciamo questi orti con questo obiettivo, sicurezza alimentare e conservazione delle specie e delle varietà tradizionali. Ebbene, questi 1000 orti hanno funzionato, non diciamo tutti e 1000, ormai ci sono stati interamente pagati da donatori privati, quindi hanno capito l'importanza di questo messaggio, e non è facilissimo da capire, dice vabbè, un orto in Africa, come sarà mai? No, è un modo diverso di affrontare l'aiuto nel sud del mondo. E allora nell'ultimo congresso abbiamo rilanciato, ha detto perché la cosa abbia un peso sociale importante, arriviamo a 10.000. A tutti quanti noi, quando Carlo Petrini, che è il nostro presidente, ha lanciato questa idea, ci è parsa un po' la follia. Poi invece ragionando e vedendo come risponde il mondo dei soci, ma non solo, i mondi di chi guarda Slow Food, abbiamo capito che questa sfida la stanno raccogliendo, cioè sta diventando un obiettivo credibile, credibile. Non dico che sarà facile raggiungerlo, ma è un obiettivo credibile e si stanno attivando anche sostegni importanti anche dalle grosse aziende. E quindi questo potrà avere un segnale, potrà essere un segnale veramente forte, cioè questo può avere un peso. Mille orti sono un simbolo, diciamolo francamente, l'Africa è un territorio sterminato, con una popolazione sterminata, con problemi sterminati, ma 10.000 comincia a essere un peso e può essere soprattutto una testimonianza che le altre istituzioni, la FAO, l'IFAD, l'ONU, possono misurare per vedere quali devono essere gli interventi, non interventi mirati a spingere sulla quantità con i pesticidi e con i fertilizzanti, ma interventi che mirino a spingere sulla volontà delle comunità locali di farsi il proprio cibo. E sarà una bella scommessa, una bella partita. Benissimo Piero, noi vi auguriamo di vincere questa bellissima scommessa, sappiamo che hai una serata impegnativa con molti altri impegni, quindi ti ringraziamo del tuo intervento e speriamo di averti ancora prossimamente come nostro ospite. Verrò in Belgio a breve. Grazie a tutti. Grazie e Gustavo ora invia la pausa musicale. Ben ritornati all'ascolto di Radio Alma 101.9, agli ascoltatori di Giro di Boa. Sono qui con Gustavo per la seconda parte della trasmissione e dopo aver parlato di Slow Food parliamo di un anniversario importante. L'11 marzo 2011 un terribile terremoto, tsunami colpisce il Giappone. È di qualche giorno fa quindi il terzo anniversario di questa tragedia, 18.000 vittime, 270.000 persone ancora non sono potuti tornare nelle loro case. Noi parliamo di quei giorni drammatici con un amico della redazione di Giro di Boa, Nicolao Zaimis, che è stato in Giappone per 4 anni, ha lavorato là per una grande organizzazione internazionale, è tornato solamente da qualche mese e sicuramente avrà delle storie molto interessanti da raccontarci. Nico, ci senti? Sì, sì, sento. Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera, Nico. Una domanda facile facile. Cosa ti ricordi di quel giorno? Tu eri a Tokyo, se non sbaglio. Sì, in primis direi grazie per l'invito. Veramente sono passati 3 anni, però è un avvenimento molto tragico che ho vissuto e, per dire la verità, sono ancora vivo dopo aver vissuto il quarto terremoto più importante nella storia, sono credo 9 Richter, nella scala di Richter, e sono vivo perché l'ho vissuto in Giappone, ecco per dirti, per capire che come sono le fatti, perché se questo terremoto avrebbe avuto luogo in Grecia, io sono greco, non sono in Italia, tutto il paese avrebbe crollato perché c'erano dei edifici molto vecchi, però a Tokyo io vi posso dire, questa giornata là era un venerdì pomeriggio, le 2:45, mi ricordo anche il minuto. Stavo tornando dopo un pranzo con un po' di business europea all'ufficio e di solito mi sono sentito, non so, come in un sogno, sentivi un po' il pavimento che si muoveva. Io non capivo, dice, forse ho bevuto un po', un po' più di vino, però non era quello. In questo minuto ho visto gli edifici che ballavano di fronte ai miei occhi. Era una cosa che li vedi solo in un film di science fiction. Quindi quello che mi ha impressionato in primis era immediatamente il silenzio. Era il terremoto ha durato 1 minuto e 40 secondi, che è enorme. Non so se avete vissuto un terremoto, però di solito io vengo da una, del Peloponneso in Grecia, dove abbiamo dei terremoti, ma sono piuttosto piccoli e durano 10 secondi, 15 secondi. Un minuto 40 secondi è enorme, enorme. E quello che ho vissuto è che di solito ho sentito, se lo posso dire così, il silenzio, un silenzio enorme, perché nessuno parlava, la gente si sono spostati, si sono mossi un poco per proteggersi sotto un balcone o vicino alla porta di un palazzo, per proteggersi, perché ci sono la prima regola che impari in Giappone è che la strada è più pericolosa dell'edificio, perché hanno fiducia, loro ingegneri dicono niente cade, gli edifici non crollano in Giappone, però è pericoloso essere fuori perché ci sono queste linee telefoniche di elettrico che cadono, ci sono dei vetri che forse cadono, che possono uccidere tanta gente. Quindi ci sono tutti fermati, il traffico, le macchine, la gente non parlava, quindi un silenzio che era quasi soprannaturale, devo dire. Quello mi ha impressionato molto. E poi la seconda è il senso di disciplina. Non c'era nessuno che gridava, nessuno che urlava o in panico. Io ve lo dico, ho vissuto anche terremoti in altri paesi, in Grecia, e c'è sempre questo istinto di correre, di gridare forse per proteggersi, per gridare ai bambini, ai ragazzi, non so, alla mamma, alla papà. Niente di tutto questo. Quindi una disciplina impressionante. Poi ero là con il mio iPhone, ho cercato di chiamare qualcuno, non potevi chiamare perché tutte le linee sono cadute immediatamente, perché c'era gente che cercava di chiamare, non so, sua famiglia. E poi ho aspettato con loro e dopo un minuto e 45 minuti il traffico si è ripreso di una maniera quasi normale, che io mi sono sentito un po' strano, ho detto, questo l'ho vissuto o non l'ho vissuto, non capisco, a chi la gente continua. Poi sono arrivato all'ufficio, dopo 10-15 minuti, ho visto tutti i colleghi che erano fuori del battimento perché avevano paura, mi hanno detto che il nostro battimento all'epoca era un edificio molto vecchio, che aveva l'aria di crollare, per dire la verità. Non volete vedere com'era il mio ufficio dopo il terremoto, tutto caduto, il computer, i libri, tutti i fascicoli. Quindi ci hanno detto anche i giapponesi che questa era una cosa eccezionale, non hanno mai vissuto una cosa talmente forte, talmente lunga. E poi non era, la storia non è finita là, perché dopo questo terremoto abbiamo vissuto, nei prossimi 2 mesi io avrei vissuto 2000 terremoti, non sto esagerando, e terremoti di 5, 6, 7, 8 nella scala di Richter, quindi terremoti importanti, quindi per 2 mesi la terra tremava continuamente, avevi il senso di essere in una nave, per dirlo, per esagerare un po', però era così. Però per tornare a questo giorno là, che cosa hanno fatto? Hanno chiuso il metro, non funzionava, quindi tutti erano obbligati ad andare a casa a piedi. Quello che ha creato il senso di, adesso che cosa facciamo? Le mamme dovevano andare alla scuola, io avevo mia moglie a casa sola, lei terrorizzata, lei è andata sotto il tavolo, così ti dicono, quando sei in casa, i giapponesi dicono sempre andare sotto il tavolo perché devi proteggerti dalle cose che cadono, i libri, le pitture, non so, i lampadari. Quindi lei ha vissuto un'altra esperienza. Io ero fuori, mi sentivo sicuro, come l'ho detto, ho visto gli altri, ero con altra gente, che è importante essere con altri quando sei in un terremoto. Lei sola, piangeva, che credeva che morisse. È un sentimento che io non l'ho vissuto, però lei credeva che questo era l'ultimo minuto della sua vita. Un racconto drammatico. Il Giappone è stato colpito molte volte, continuamente colpito da terremoti, ma questo è stato a causa poi dello tsunami, un terremoto che ha ucciso moltissime persone. Questo per te ha cambiato in un qualche modo, diciamo così, un po' la sensibilità dei giapponesi nei confronti del terremoto? Cioè, perché mi immagino, sempre si era sentito di terremoti in Giappone, però data la grande tecnologia giapponese non erano mai stati così devastanti come a volte sono in alcune parti d'Europa e Asia, però questa volta è stato veramente ha avuto un impatto tremendo in termini di perdite di vite. I giapponesi hanno un po' cambiato il loro atteggiamento nei confronti di questa, diciamo, spada di Damocle che pende sempre sulle loro teste, hanno più paura. È vero questo, perché non era una crisi, non è il terremoto non ha ucciso quasi nessuno, sono meno di 100 persone che sono morte a causa del terremoto, è il tsunami causato dal terremoto che ha ucciso poi quasi 20.000 persone, e questo era lo secondo shock. Perché? Perché avevano costruito su tutta la spiaggia nel nord-est di Giappone, ci sono questi mura nel mare per proteggersi dal tsunami, perché i giapponesi sono abituati al tsunami, non so se vedete anche loro arte questi ukiyo-e, che le litografie che utilizzano nel passato, ci sono delle famosissime scene con dei tsunami che vengono e vanno, quindi credevano di essere abituati, di sapere come vivere un tsunami, però questo tsunami era molto diverso da tutti gli altri, perché è arrivato anche fino a 4-5 chilometri dentro nel paese, quindi si è fermato, non so, nei paesi dove non avevano neanche aspettato di vedere il mare avvicinarsi, e non erano preparati per questo, purtroppo tantissime persone sono morte perché non sapevano come reagire in questo momento là. Tanti bambini nelle scuole, erano venerdì pomeriggio, quindi un giorno di lavoro, la gente era, i bambini alle scuole, la gente lavorava, quindi tutti erano un po' dappertutto. E il triplo shock era quello di Fukushima, il tsunami ha causato poi la crisi nucleare, quella che tutti la conosciamo. E là, hai ragione Michele, questo ha scioccato perché i giapponesi hanno un'altissima tecnologia. Sono anche molto disciplinati e sono molto anche onesti e lavorano sempre con una precisione che è da ammirare. Quindi avevano una fiducia quasi cieca alla loro tecnologia. È venuto questo tsunami che ha creato una crisi senza precedente. E in questo vedi anche un po' l'aspetto negativo, perché i giapponesi sono armoniosi, credono all'armonia, al consensus. In questo momento là, in una crisi, però è molto difficile di avere un consensus, hai bisogno di qualcuno che deve prendere un po' delle responsabilità e delle decisioni, hai bisogno di un leader, diciamo così, però in una fase di crisi tutti sorpresi con la Fukushima, con il risultato che il sistema del raffreddamento, del sistema nucleare non funzionava più, non sapevano cosa fare, non erano pronti, non avevano quello che gli americani chiamano un crisis management, non erano pronti per questo. Quindi hanno un po' perso la fiducia che avevano nei confronti della loro tecnologia. E questo lo puoi vedere anche nella vita quotidiana, poi 3 anni sono ormai passati, però la gente non dimentica e vive adesso sempre con lo dubbio, la tecnologia ci può salvare, però non è la perfezione. Però per mettere le cose per pensare come erano le cose 3 anni fa, all'epoca la gente era un po' sconvolta, diceva perché il governo non sta facendo qualcosa, che cosa sta succedendo? Noi sapevamo solo dal CNN quello che stava succedendo, non volevano creare un senso di panico, è ovvio, perché una città di una metropoli di 37 milioni di abitanti non hai il diritto di creare il panico, perché dove si mettono tutte queste gente? Quindi noi stavamo seguendo dalla televisione, dal CNN, loro che dicevano, una esplosione, poi il giorno dopo una seconda esplosione, poi il terzo giorno una terza esplosione. Io, la mia famiglia, io l'ho mandato poi a Singapore e poi sono finiti in Grecia, però tutti stranieri hanno lasciato il paese, credo che siamo rimasti pochissimi stranieri in Giappone. Era un senso strano, perché tu andavi in giro, ti vedevano, erano stranieri, erano sorpresi che tu sei ancora là. Ho vissuto anche un'esperienza che dimostra anche la loro generosità, perché una settimana dopo stavo con degli amici in un piccolo ristorantino a Tokyo e un altro terremoto di 7,5 Richter, credo, è successo, e questo ristorante era un po' vecchio, io avevo paura, per dire la verità, per essere onesto, non l'ho dimostrato perché non voleva offendere gli amici, quindi siamo rimasti là dicendo speriamo che adesso tutto non cade. Non è caduto, fortunatamente, e poi il chef del ristorante è talmente felice che io sono stato là, che non ho fatto, che non ho urlato, che ha cominciato a offrirmi dei whisky da bere, che sai, no, è una cosa che non lo fanno tantissimo, non hanno questa attitudine mediterranea come abbiamo noi. Nikos, hai parlato del cibo. Quando, insomma, ricordo, ero piccolo, però quando vi fu la catastrofe di Chernobyl, in Europa non si sapeva più cosa mangiare, se poter bere il latte, se poter mangiare le verdure, eccetera. In Giappone, con questa fuga radioattiva a pochi chilometri da Tokyo, come si è gestita la questione alimentare? Era una questione molto importante, forse la più importante dopo per le famiglie, anche per la gente, perché il terremoto, il Fukushima è vicino alla zona agricola, una delle più importanti in Giappone, che sta producendo tutte queste cose che adoriamo nella cucina giapponese. Però dopo ho vissuto in una situazione come nel terzo mondo, dove l'acqua era forse contaminata, non si sa, però la gente voleva comprare dell'acqua minerale e non si trovava l'acqua minerale. Hanno fatto la quota dell'acqua minerale, 2 bottiglie per persona, e questo per 2 mesi. C'era la quota sul gas per gli automobili, non potevi mettere più di 20 litri. Tutto quello come se fosse una zona di guerra. E per il cibo non facevano più fiducia, perché dicevano, ma dove viene questo cibo? È contaminato o non è contaminato? E devo dire, perché i giovani sono onesti in questo, i supermercati, soprattutto i supermercati che sono dove hanno dei stranieri, hanno messo nel centro una grande carta di Giappone dove potevi vedere tutte le province numerate, quindi dicevano questi pomodori vengono dalla provincia numero 5, potevi andare a vedere dov'è questa provincia numero 5 e se eri vicino a Fukushima potevi non comprarli, se era lontana lo potevi comprare, quindi tutto organizzatissimi anche in questo. Però la comunità europea ha preso delle misure, con quasi tutto il mondo hanno preso delle misure contro il cibo giapponese, no, per dirti la verità, per gli adulti, perché hanno controllato, facevano dei campioni, ci mandavano ogni giorno delle liste degli alimenti che tu non potevi mangiare, quindi facevano dei controlli, buoni controlli, però tu dici ok, hanno fatto, preso dei campioni così per vedere, possono controllare tutto o non possono, sai, è un po' come la fede, fare fiducia o non fare fiducia a un meccanismo di controllo. Noi personalmente, vuol dire, quelli che hanno dei bambini hanno deciso di non prendere il rischio, quelli che, tutte le famiglie che avevano dei bambini, compravano delle cose che venivano dal sud, dall'Okinawa, dal Kyushu, dalla parte che sono molto lontane da Fukushima. però c'erano anche questi che, vedi là, come l'anima giapponese che è un po' scisa, sono quelli che dicevano dobbiamo proteggere i bambini, non possiamo prendere il rischio di mangiare qualcosa che è contaminato, soprattutto per i bambini, e gli altri che dicevano no, adesso è il momento dove dobbiamo dimostrare che amiamo quelli di Fukushima, che dobbiamo aiutarli, e questo è il momento dove dobbiamo comprare e mangiare il loro cibo. Quindi hai le due estremità, se vuoi. Però devo dire, questo era un problema, perché il cibo giapponese, forse la cucina giapponese è una dei migliori del mondo, e loro adorano cucinare, anche hai in Tokyo, per esempio, ristoranti italiani, francesi, più fini nel mondo. Quindi per loro era un grande problema di non poter avere tutti questi questa frutta della zona vicino a Fukushima, che erano, questo poteva essere il tema di un altro discorso, l'agricoltura giapponese, come finiscono per avere un prodotto che è veramente buono e di un'alta qualità. Quindi avere questi prodotti di alta qualità che tu non puoi mangiare perché non fai fiducia è una situazione tragica. Però, come ti dico, sono organizzati, hanno una disciplina, sono messo in posto un sistema di controllo, e poi quindi 2 anni dopo abbiamo tolto anche noi nella comunità europea tutti questi certificati che avevamo all'epoca ai confronti dei giapponesi. Salve Nico, sono Gustavo. Però adesso ci hai. Dovrebbe durare, perché sai, questo, la radioattività può rimanere anche 30 o 40 anni sulla Terra, e poi entrare nel ciclo alimentario e rimanere là per 30 anni, 40 anni, 50 anni. Salve Nico, sono Gustavo. Adesso ci hai parlato di com'è stata la situazione subito dopo il terremoto. Per quanto riguarda il cibo, io ti volevo chiedere com'è stato dopo la ricostruzione. Hai notizie di, perché tu credo sei tornato in Europa poco tempo fa, com'è la situazione, qual è il punto della situazione per quanto riguarda la ricostruzione? La ricostruzione, per dire la verità, non ha progredito molto. Io ho visitato questi posti 5 mesi dopo il disastro, sono andato là nella zona del disastro per vedere chi, per aiutare anche un po' le società europee che volevano aiutare nella ricostruzione. Il problema è che non ha ancora preso tantissime decisioni che loro prendono. Per darti un esempio, ci sono delle province che non credono che la gente deve tornare nei stessi paesi che sono vicino, che sono sulla spiaggia, che sono vicino al mare, che devono ricostruire un altro paese, un'altra città sulla montagna per proteggersi. Però questo ha dei problemi giuridici enormi, come fai con le proprietà, come fai, perché devi ricostruire sulla montagna, per il giapponese è un paese molto montagnoso, quindi problemi tecnici e giuridici enormi. Poi ci sono degli altri che dicono noi dobbiamo tornare, dobbiamo costruire delle mura nel mare che sono ancora più alti. Quindi non hanno preso una decisione, e come risultato 3 anni dopo hai ancora credo 200.000 persone che vivono in delle case che sono di legno, sono queste prefabbricate. Poi c'è un altro gruppo di persone che forse non potrà mai tornare a casa loro, sono quelli che vivono vicino a Fukushima, perché vicino a Fukushima, a una distanza diciamo di 20 km o 30 km, è proibito, non puoi tornare, perché la terra è molto contaminata. Poi c'è la seconda zona che va fino a 80 km, dove puoi tornare, però c'è tanta gente che non vuole tornare, perché non vuole prendere il rischio. E di nuovo hai dei problemi, che cosa fai con queste case? sono abbandonate, non li possono vendere perché non c'è nessuno per comprarle, e come risultato è ancora anche là delle persone che vivono fuori la loro casa e fuori le loro province. Quello continua, e non è un problema di soldi, per dire la verità, perché i soldi ci sono, è un paese ricco, ci sono anche tantissimi altri paesi che hanno offerto di aiuto, e che loro devono prendere una decisione di abbandonare, che non vogliono fare, o di ricostruire, e poi devono risolvere questi problemi giuridici e tecnici. E secondo me questo durerà per i prossimi 3 o 5 o anche 10 anni. Non è una cosa facile. E per il momento i terremoti non continuano, non ci sono più tanti terremoti, si sono smessi. Però la gente vive sempre con questo, questa esperienza. E per darvi un problema, un esempio pratico, nel prossimo, ogni terremoto che succede adesso, un terremoto che ha 6 Richter o 7 Richter, la gente vive con la paura di avere un nuovo tsunami. E che cosa fai? Perché il tsunami arriva fra 20 minuti o mezz'ora, quindi se hai un terremoto alle 2 di mattina, 2 di notte, cosa devi fare? Devi svegliare i bambini, uscire di casa, i vecchi genitori, non so, per proteggerti, perché non sai se il tsunami viene o non viene. Quindi è una situazione che distrugge, se vuoi, un po' la quotidianità normale, la qualità di vita delle persone. Però sono una di gente molto forti, devo dire, molto forti, e continuano a vivere così, e adorano il loro paese, questo lo capisco. Nikos, un'ultima domanda, abbiamo ancora 4-5 minuti. I giapponesi sono conosciuti per essere persone molto riservate. Questo terremoto, però, questo tsunami è stata un'esperienza importante anche, diciamo così, per i giapponesi, da un punto di vista anche personale, posso immaginare, da un punto di vista collettivo. Dopo che c'è stato questo terremoto, tu, non so, hai visto nelle tue frequentazioni con i giapponesi magari un atteggiamento diverso, più, non so, più aperto, tipo quello che ha avuto questo ristoratore, che vedendo uno straniero che rimane nel suo ristorante nel mezzo di un terremoto subito gli offre da bere? Per dire la verità, nell'anima giapponese non è facile entrare, e non sono persone che esternalizzano i loro sentimenti, quindi sono sicuro che le cose sono cambiate, però non è facile vedere o sentire questo. Devi essere veramente amico con uno o due giapponesi. Io ho due o tre amici che mi hanno raccontato le cose che non posso adesso ripetere, però c'è un senso, come ho detto prima, per me il più grande vittima è la loro fiducia alla tecnologia, che la tecnologia poteva risolvere tutto prima di Fukushima. Volevano aumentare la produzione dell'elettricità dell'industria nucleare a 50% della consumazione nazionale. Ormai, come lo sapete forse, hanno chiuso tutte le stazioni nucleari, sono ancora riaperti, quindi devono importare del gas, del petrolio dalla Russia, perché hanno un po' paura di rimettere funzionamento queste stazioni nucleari. Quindi hanno perso un po' la loro fiducia che la tecnologia può risolvere tutto, noi possiamo farlo, e sono molto più meno, come si dice, hanno meno fiducia, come hai detto, alla tecnologia, però continuano a avere le qualità che vanno in primis, quindi sono delle persone che adorano la loro professione, hanno un certo di onore che si vede nei confronti della loro famiglia, della loro società, della loro industria. Tutte queste qualità rimangono, però in un contesto un po' diverso, direi. Però non è una società dove uno può andare e dire, ah, ok, vedo una differenza. C'è una barzelletta che raccontano in Giappone, dicono, la persona che sa tutto sul Giappone è lui che ha vissuto meno di un anno o più di 20 anni. Quindi la persona che ha vissuto, perché arrivi il primo anno e credi di conoscere tutto e capire tutto, però poi capisci che non hai capito nulla, e forse se rimani 20 anni cominci a capire un po' come pensa come lo pensa l'anima giapponese. Quindi molto difficile da entrare come anima e come pensiero. Bene Nikos, siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione, ti ringraziamo per questo tuo accompagnarci nei tuoi ricordi, anche per quel pochissimo che si può nell'animo giapponese. Certo, noi veniamo da due paesi, io e te, l'Italia e la Grecia, che hanno di terremoti ne hanno avuti, e comunque sia rimane insomma il fatto che i giapponesi, speriamo di imparare qualcosa su come gestire e affrontare questi terribili eventi da un punto di vista della costruzione, della qualità delle costruzioni e anche dell'atteggiamento, insomma, che si deve tenere quando questo accade. E poi abbiamo visto, insomma, la ricostruzione è un po' un problema per tutti, lo sappiamo noi in Italia e evidentemente lo sanno anche in Giappone. Quindi ti ringraziamo, ti auguriamo buona serata e ci risentiremo probabilmente su Giro di Boa. Io anch'io vi ringrazio tanto e scusatemi se il mio italiano non era all'altezza del tema, però vi ringrazio per l'invito. Il tuo italiano è stato perfetto, grazie. Grazie. Bene, salutiamo quindi i nostri ascoltatori, gli diamo appuntamento prossimamente sulle frequenze di Radio Alma 101.9 con Giro di Boa. Un saluto da Michele. E un saluto da Gustavo, buonasera a tutti.